Questo è un momento organizzato dalla Fondazione per ricordare Giampaolo Calchinovati, che è stato una persona, uno studioso, anche un militante, se si può usare questa parola, della politica ma anche della cultura, vicino alla Fondazione, molte volte dentro la Fondazione in molte delle sue attività, e ci è sembrato giusto trovare un attimo di proprio per ricordare con molta semplicità. E abbiamo chiesto a Gianfranco Astori, che è appena rientrato dalla Cina, dove ha accompagnato il presidente ieri, e Tommaso Di Francesco, Astori per il lavoro svolto a Lipalmo tanti anni fa insieme, 40 anni fa, però volevamo far parlare anche attraverso queste persone, come dire, pezzi di vita di interessi culturali e politici di Giampaolo, e Tommaso e Francesco per la consuetudine di Giampaolo di scrivere sul manifesto la sua visione dell'Africa, che ha arricchito sicuramente la conoscenza africanistica in Italia, perché questo è un settore normalmente poco considerato a lungo dagli studiosi e dagli editorialisti, eccetera. E abbiamo chiesto poi a Lia Quartapelle se ci dice qualche cosa anche in riferimento alle attività dell'ISPI, dove naturalmente Giampaolo si è formato nei primi anni e ha continuato la collaborazione prima e dopo l'università. E per ultimo a Pierluigi Valsecchi, che di Giampaolo è stato forse il primo e il allievo che l'ha seguito con più attenzione in tutta la sua percorsi universitari, e ci parlerà un po' di Giampaolo all'università. Naturalmente ci sono tante altre cose, altri aspetti della vita di Giampaolo che magari io chiederò a tutte le persone che sono qui di parlare per una decina di minuti, non di più, anche per dare la possibilità alle persone che stanno qui in aula, che hanno conosciuto Giampaolo, di intervenire, di dire un loro ricordo, eccetera. E io sono Sandro Triulzi, naturalmente, un vecchio collega di Giampaolo. Ero molto indeciso se dirlo o non dirlo, ma insomma, io la notte di Capodanno ho ricevuto una telefonata dalla famiglia di Giampaolo, e che mi comunicava da un lato che erano gli ultimi momenti di vita terrena, e dall'altro che Giampaolo voleva salutare gli amici, voleva salutare le persone con cui lui aveva avuto una dimestichezza di rapporti, e questa notte di Capodanno in cui poi ho saputo dalla famiglia, e mi scuso con la figlia se torno su queste cose, perché rinvengono insomma ricordi, dolori, eccetera. Lui ha insistito per mangiarsi la sua fetta di panettone e ha insistito per bere un suo ultimo bicchiere di champagne. Ecco, questo era Giampaolo Calchinovati. E naturalmente non ci abbiamo pensato quando io stamattina ho scoperto che oggi è martedì grasso, però Giampaolo avrebbe sorriso, non avrebbe fatto una tragedia, perché Giampaolo era anche una persona con un grande senso fiume, e noi vogliamo ricordare e l'uomo e lo studioso. Gianfranco, vuoi cominciare tu? Grazie. Questo momento che si aggiunge, voglio dire, a quello che tenta di ripercorrere un cammino la cui fecondità e le cui caratteristiche di assoluta originalità meritano probabilmente di essere indagate in modo anche, per così dire, più scientifico, e non mi sembra sbagliato utilizzare questa categoria, avendo presente il ruolo di studioso, ruolo di docente di Calchinovati. Io conobbi Giampaolo in una veste completamente diversa, che era quella di direttore dell'IPALMO, quando mi trovai a collaborare con lui giusti 40 anni or sono, nell'ambito di una esperienza che muoveva i primi passi sull'onda dell'articolazione di una proposta di politica internazionale meno scontata e più aperta di quanto fin l'Italia avesse sviluppato. Nell'ambito del dibattito politico e culturale che ha animato gli anni 60 e che poi naturalmente si è tradotto anche negli anni 70 in istituzioni ed in scelte, il tentativo di dar vita ad un organismo nell'ambito del quale culture politiche diverse, visioni diverse della vita politica internazionale tentassero di giungere ad una sintesi che fosse di servizio ad una collocazione internazionale dell'Italia meno scontata di quella rigidamente atlantica che nel contrasto est-ovest si era sino ad allora manifestata, trovava nell'IPALMO uno dei primi momenti di cristallizzazione di un'esperienza che si dimostrò particolarmente feconda e che già allora in termini di intuizione, e anche qui dico a Carlo Guelfi, prima o poi qualcuno dovrà scrivere qualcosa su cosa è stato l'IPALMO dal punto di vista, voglio dire, della valutazione e di un percorso, e nello scrivere quella storia inevitabilmente incroceremo di nuovo la figura, voglio dire, di Giampaolo, che di quella attività fu necessariamente il fecondatore maggiore, mettendo insieme una squadra che era una squadra, per così dire, non tutta di qualità e allo stesso livello. Sto pensando a me, che in quel momento venni chiamato nella logica della lottizzazione che caratterizzava organismi di questo tipo a rappresentare la Democrazia Cristiana nell'ambito di un'equipe che aveva personalità ben più strutturate. Penso a Dina Forte, voglio dire, che rappresentava il Partito Comunista e che veniva da una lunga esperienza al Dipartimento Internazionale, voglio dire, del PC, a Liliana Magrini, voglio dire, per ricordare un'altra figura molto significativa dal punto di vista della ricerca di politica internazionale, o Giancarlo Pasquini, che si occupava poi, voglio dire, della rivista, e via via potremmo continuare, voglio dire, con figure di questo tipo e che erano, come dire, il quadro permanente. A me toccò in sorte di occuparmi di qualcosa che era allora misterioso, che erano le relazioni istituzionali dell'IPALMO e un po' di America Latina, che era una zona relativamente come dire, trascurata nell'ambito delle vicende che l'IPALMO metteva allora in piena luce e che erano necessariamente quelle relative al completamento dei processi di decolonizzazione in atto, se volessimo caratterizzare questo immaginando ciò che capitava in quel momento nel sud-est asiatico, ma ciò che capitava evidentemente in particolare nelle ex colonie portoghesi, nelle vicende legate alle ex colonie italiane, con quella che, se mi si passa un'espressione che non vuole suonare sacrilega oppure un po' ardita, faceva configurare quasi l'IPALMO come una sorta di Sant'Egidio ante litteram, che cercava di costruire dei percorsi di dialogo anche laddove, come era il caso per esempio delle ex colonie portoghesi, movimenti di liberazione compositi confliggevano tra loro nel tentativo, voglio dire, poi di governare i processi che portavano all'articolazione di nuovi stati, di nuove realtà statuali, di nuove classi dirigenti e via via. Non devo evidentemente soffermarmi sotto questo profilo, ma non è evidentemente per parlare dell'IPALMO che siamo qui questa sera, quanto in qualche misura per tentare di contribuire, lo faccio volentieri, a tentare davvero, e l'espressione tentare è assolutamente corretta in questo ambito, di definire una figura in larga misura difficilmente riportabile a categorie. La figura dell'intellettuale Giampaolo Calchinovati è difficilmente definibile come una categoria di intellettuale organico, per riprendere un'espressione di quegli anni. Non perché non appartenesse alla sinistra, voglio dire, questo era nelle categorie culturali, morali, prima ancora, voglio dire, che politiche della sua testimonianza, ma perché in qualche misura trascendeva, voglio dire, questa scelta di campo. E la trascendeva in virtù non solo evidentemente di una capacità di dialogo con il dibattito che in quel periodo animava le istituzioni alle quali partecipava, ma in funzione del rigore che egli manifestava nella ricerca di tipo storico, ma anche di tipo politologico, che sviluppava e manifestava. Io devo dire che con tutta la diffidenza che derivava dall'essere io il commissario politico di una parte, voglio dire, del dibattito che si sviluppava all'interno dell'IPALMO, io fui sicuramente affascinato, voglio dire, dalla sua figura, dalla capacità che aveva di proporre una sintesi politica il cui carattere di originalità la sottraeva alle logiche di schieramento, riportandole invece a categorie analisi, certo in larga misura marxista, rispetto ai processi di carattere economico che si sviluppavano in quel momento nell'ambito dei processi di decolonizzazione ai quali guardavamo in quel momento, ma nell'ambito, dicevo, di un'analisi che era l'analisi che indubbiamente proponeva la necessità di scelte diverse, soprattutto dal punto di vista, voglio dire, delle potenze occidentali a cui l'Italia continuava in quel momento ad appartenere. Perché sono lieto di parlare qui di lui, di parlare di episodi di 40 anni fa, di quando anche lui era giovane professore a Pisa, credo, in quel periodo, perché ricordo che partiva ogni tanto di corsa da Roma per raggiungere Pisa, dove appunto aveva un insegnamento, voglio dire, il percorso accademico più puntuale sotto questo profilo. Perché il rischio, spesse volte, quando si è avuto una vita così feconda, così ricca e articolata come quella di Giampaolo, è di essere ricordati prevalentemente da coloro che sono coevi rispetto all'ultima parte della propria esperienza, cioè di avere un segmento del proprio percorso. Perché? Perché naturalmente sono più rari i testimoni come Carlo, come me, voglio dire, che in qualche modo appartengono evidentemente ad un'epoca precedente, assolutamente. Infatti ho parlato di rari testimoni, però in circostanza, vuol dire che siamo qui in qualche misura e di buon augurio, voglio dire, di buon auspicio. Allora, chiaramente affidare alla memoria, alla nostra memoria, voglio dire, alla memoria di chi, voglio dire, nell'ambito di testate come il Manifesto ha poi potuto sviluppare anche un'intensa attività pubblicistica di espressione antica, rischia di essere parziale, perché ciascheduno propone la parte di esperienza che ha vissuto, voglio dire, in proprio, e non invece quella riflessione più ampia che potrebbe riportarci addirittura per qualche aspetto a radici ben più ampie di quelle che gli attribuiamo. Sto pensando alla prima parte di collaborazione pubblicistica e di elaborazione politico-culturale che Giampaolo ebbe ad esprimere attraverso una rivista come l'Astrolabio, che viene ricordata necessariamente da pochi rispetto delle ragioni anzidette, no? Rispetto alla pubblicistica che poi negli anni successivi si sviluppò, ma le cui caratteristiche di sinistra moderna, non comunista, voglio dire, se vogliamo attribuire un significato squisitamente dogmatico, no, all'espressione comunista, ampliava esattamente una visione, un'interpretazione che poi sarebbe stata una cifra che troviamo in un intellettuale rigoroso, in un direttore, posso aggiungere, spigoloso, la cui, voglio dire, prima impressione era quella di apparire come dogmatico e che tuttavia invece attraverso la competenza che sviluppava conquistava poi, voglio dire, un rispetto immediato ed è quello che in qualche modo emerse in quel momento. Ho citato prima quali erano le sfide con cui in qualche misura io mi trovai con lui a confrontarmi a carattere internazionale, ho citato gli episodi delle ex colonie portoghesi con i leader che trovavano, voglio dire, nella galleria del Tritone un momento di riferimento puntuale, di confronto con le forze politiche italiane, con le forze economiche italiane, in una sorta di capacità di condivisione di quella che per la presenza dei grandi gruppi a partecipazione statale, voglio dire, come si definivano allora, erano comunque agenzie di politica estera, di politica internazionale molto concreta per ciò che riguardava evidentemente il nostro paese. Ma vorrei qui ricordare un altro tema che lo ha visto particolarmente impegnato e che in quegli anni era definito in modo sintetico, oggi è passato un po' di moda, il Corno d'Africa, sostanzialmente oltre alla presenza delle ex colonie italiane, che videro impegnati davvero le forze italiane in modo assai significativo per uscire dalla condizione, chiamiamola post-coloniale, che si era manifestata sin lì, immaginando che fosse davvero possibile con la Somalia, con l'Etiopia, voglio dire, in particolare, sviluppare iniziative che fossero alla pari e che consentissero a questi paesi in qualche misura di poter beneficiare del debito che l'Italia aveva nei loro confronti per l'avventura coloniale che si era verificata negli anni 30, negli anni in cui nasceva, voglio dire, tra l'altro è stato notato da qualcuno il 35, voglio dire, fu un anno determinante per la presenza italiana in quel momento in Africa sotto questo profilo. Sto pensando ad uno strumento che oggi fa sorridere per ovviamente la dimensione incrementale che negli anni è intervenuta, che fu quello della cooperazione universitaria. La pagina, voglio dire, della presenza di Giampaolo ad Addis Abeba, voglio dire, nell'ambito della cooperazione generazione universitaria è un'altra pagina che verosimilmente andrebbe meglio, come dire, esplorata, perché è emblematica, voglio dire, di una modalità di approccio lontana anni luce, voglio dire, da modalità di approccio di carattere strumentale, ed ancorata invece alla circostanza di far crescere una cultura comune, che non era l'acquisizione della cultura coloniale da parte delle classi dirigenti che crescevano in questi paesi, bensì la capacità di mettere a disposizione strumenti attraverso i quali le classi dirigenti di quei paesi costruissero che cosa. Noi eravamo molto affascinati, voglio dire, inevitabilmente in quegli anni, da quello che sembrava essere l'ultima eredità di Bandung e quindi del movimento dei non allineati, che cercava di manifestare una qualche vitalità adonta, voglio dire, della chiusura che la guerra fredda continuava, voglio dire, a rappresentare nell'ambito dei rapporti di carattere internazionale. Ed è allora in una dimensione, quella internazionale, in cui l'Italia, sorretta, voglio dire, dal sistema che richiamavo prima, cercava di muovere passi che non fossero assolutamente scontati, che troviamo la lezione di Giampaolo Calchi-Lomati. Una lezione che non è lezione storica, unita ad un'analisi, come dire, del divenire degli equilibri della vicenda internazionale. Per chi era abituato ad interpretare il mondo secondo le caratteristiche specifiche, voglio dire, del contenzioso e storico, quello in qualche misura ripostatizzato, scontato, la capacità di lettura di ciò che interveniva in quel momento era fatto di iniziative concrete, di intuizioni che si sviluppavano. Vogliamo parlare del dialogo che oggi chiameremo Sud-Sud, vogliamo parlare della circostanza del dialogo Nord-Sud, e cioè della prima iniziativa che da Rambouillet in là si sarebbe sviluppata e che vide Giampaolo con tutti noi fortemente impegnato nella capacità di cogliere una sorta, voglio dire, di G20 ante litteram, una sorta di capacità di dialogo tra protagonisti che allora erano ancora meno di oggi, voglio dire, sullo stesso piano dal punto di vista della capacità di partecipazione alla vita politica internazionale. Per dirla, voglio dire, con un'espressione, concludo, potremmo dire che il divenire del pensiero politico italiano postcoloniale è debitore, voglio dire, nei confronti dell'elaborazione politica culturale di Giampaolo, di una capacità di superamento di ciò che era inevitabilmente la cattiva coscienza, voglio dire, che il nostro paese manifestava in quell'ambito, con un tentativo generosamente sviluppato poi negli ultimi anni, no? Sino all'ultimo studio, no? Che ha firmato rispetto alle politiche africane, no? Dell'Africa subsahariana, che l'Italia avrebbe dovuto mettere in campo, che rappresenta, almeno dal mio punto di vista, una singolare continuità tra le riflessioni che erano evidentemente, come ho detto prima, che potevano apparire dogmatiche, legate, voglio dire, a categorie analisi in qualche misura scontate eppure autentiche, voglio dire, rispetto a quegli anni, e la capacità di aggiornare poi una possibilità, un ruolo per l'Italia completamente diverso rispetto a quello di quegli anni, rispetto a quello immediatamente postcoloniale, in una realtà come quella africana che aveva sicuramente attirato, voglio dire, la maggior parte del suo impegno. Se dovessimo, voglio dire, utilizzare anche qui un'espressione sintetica e concludo, potremmo dire che la sua lezione non è sicuramente passata in vano per questo paese e per coloro che sul terreno, voglio dire, della riflessione di politica internazionale vogliono oggi confrontarsi. Grazie. So che Tommaso Francesco poi dovrà più tardi rientrare in redazione, quindi pregherei di prendere la parola. Tommaso è stato molto vicino anche attenzione. Appena fatto il tempo. Sono i famosi danni collaterali questi. Avevamo visto quello che accadeva. Perché ognuno come ha valutato. Ci vorrebbe un fazzoletto. Vabbè. Bisogna avere il computer perché poi i fogli si. E questo, questo mi pare che è andato, quindi lo si può utilizzare. Prego, sì, adesso vediamo, vediamo se riusciamo a tenere, ecco, ottimo, c'hai, questa mi pare una cosa adeguata, chiedo scusa. Aspetta che proviamo a risolvere, per ora è così. No, no, va bene, scusate. Allora, io avevo preparato una lunga cosa, invece cerco di essere breve e sintetico e capace nella comunicazione come chi mi ha preceduto. E quel che mi interessa dire è del debito positivo che la mia generazione ha con figure come quella di Giampaolo. E è stato usato un aggettivo che io considero decisivo: spigoloso. Personalmente non mi aspetto molto da chi è sempre disposto a tutto e in modo sedicente, flessibile, accetta tutto. La spigolosità credo che sia davvero una straordinaria qualità dei nostri, che dovremmo avere nei tempi che ci stanno di fronte così difficili. Giampaolo era spigoloso, era difficile, era rigoroso e se necessario usava il rimprovero. Io devo a lui moltissimo perché attraverso questo metodo, che pretendeva rispetto e pretendeva di far bene le cose che si fanno, come dice Ovidio, agie squidagie, garantiva una comunicazione proficua. E io ho avuto il privilegio di stabilire praticamente tutti i rapporti con il giornale e Giampaolo, con il Manifesto e Giampaolo per decenni. E sui temi, quasi sempre d'accordo, ma qualche volta anche in disaccordo per come venivano trattati all'interno del giornale, però lui appunto pretendeva questo rigore. In che cosa consisteva la straordinaria particolarità di Giampaolo? E perché noi ci rivolgevamo a lui per saperne di più? Perché garantiva una cosa che non c'è più, purtroppo, ma che potrebbe esserci, o meglio, sarebbe giusto coltivarla. E cioè garantiva un rapporto molto stretto tra prospezione, analisi, scavo profondo della realtà internazionale e prospettiva nazionale. C'è stato un tempo in cui quella che chiamavamo sinistra aveva un programma rivolto all'esterno che definiva la natura del programma di trasformazioni interne. Tutto questo non c'è più. Questo garantiva Giampaolo. L'attenzione ai processi coloniali, non cito tutti i libri che noi che siamo qui immagino che conosciamo, l'attenzione al processo di decolonizzazione, che già aveva in nuce una valutazione critica di quel processo, non già perché non fosse evidente il processo che era in atto, ma perché intanto non era terminato. Quando lui scrive L'Africa nera, ci sono una serie di processi rivoluzionari che saranno poi, processi di decolonizzazione che saranno poi, che porteranno a termine il processo. Voglio dire che per esempio la vicenda sudafricana non era ancora esplicitata fino in fondo, così come quella perfino più vicina a noi delle colonie portoghesi. Eppure quel libro le preconizzava, perché in modo icastico diceva che era questione di tempo, stavano per accadere anche quelle. Pur tuttavia, nell'analisi che lui farà e poi in questo corpo a corpo anche con la riflessione e il riferimento straordinario di Giampaolo su Frantz Fanon, che ricordo a tutti quando compare in Italia c'è l'introduzione di Sartre, lui vede come i processi di decolonizzazione attivano una trasformazione anche nel campo occidentale e segnatamente nel campo europeo. Pensate soltanto a quel che accade con la rivoluzione d'Algeria in Francia. De Gaulle, la Quarta Repubblica, torna in modo presidenzialissimo e quindi c'è una trasformazione strutturale degli stati che precedentemente sono stati coloniali. Che cosa deriva da questa trasformazione? Deriva probabilmente un principio di, per un verso, inclusione nei vari, se pensate a tutte quante le trasformazioni europee, occidentali, un processo di inclusione, un processo di inclusione nella formazione dello Stato e del governo delle forze del movimento operaio, al contempo si attiva una stagione che stabilisce, almeno apparentemente, rapporti uguali con le nuove realtà che stanno emergendo. Poi però queste trasformazioni alla fine non si realizzano in un senso o nell'altro. In buona sostanza noi arriviamo, possiamo tranquillamente dirlo, negli anni Ottanta ad un processo di riattivazione delle colonizzazioni che vede significativamente una attivazione di nuove presenze economiche molto forti, al di là di poi tutti quanti gli sforzi culturali che sono stati anche elencati, perché questi ci stanno, e si riattiva pienamente alla fine degli anni 90 un processo di ricolonizzazione. In buona sostanza noi nella situazione attuale possiamo dire, ed è l'elemento che più contraddice quello che noi volevamo e che impegnava Giampaolo a capire quali fossero i limiti attuali, ci troviamo ad una situazione in cui l'Africa nera descritta da Giampaolo è una realtà continentale tornata nel silenzio, tornata nella deriva, con probabilmente la lotta, quella più significativa, quella del Sudafrica, assolutamente rimasta parziale e non compiuta, con una deriva dei processi di decolonizzazione nelle realtà delle ex colonie portoghesi, e con un elemento significativo che negli ultimi 7-8 anni ha visto Giampaolo Calchinovati scrivere ogni settimana sul Manifesto: la straordinaria debolezza dei paesi del Sahel di fronte ai processi di radicalizzazione islamica che lì ci sono stati. E quindi, insomma, in buona sostanza, torno all'elemento centrale: il discorso internazionalista, uso una parola terribile, assunto non già in una chiave ideologica, ma come scavo e illuminazione di un grande processo di democrazia generale compiuta nei larghi spazi, non solo nell'Occidente, dovrebbe in questa fase, e anche per auspicio di Giampaolo, tornare un elemento di riflessione fondamentale, perché è chiaro che invece si sono ricomposte le fratture dei mondi e le derive dei continenti. Quando Giampaolo ci ha lasciato, pensate che soltanto una settimana prima aveva scritto un articolo per il Manifesto, solo una settimana prima, e la sua insistenza perché uscisse adesso mi fa riflettere. Era proprio su questa deriva dell'Africa, era proprio su questa deriva dell'Africa, e io mi ripromettevo di discutere con lui di un argomento che era piuttosto straordinario, perché perché probabilmente ci sono, cominciano ad esserci significativamente dei punti di riferimento analitici su quello che noi stiamo dicendo anche nei paesi africani e comunque sicuramente del Nord Africa. Avevo detto a Giampaolo che volevo parlare con lui di questo libro, non so se l'avete letto, credo che sia uno dei romanzi più importanti che siano usciti negli ultimi tempi, si chiama Il caso Merceau ed è dell'algerino Kamel Daoud. Qual è la caratteristica di questo straordinario romanzo? Che rovescia la prospettiva dello straniero di Camus. In buona sostanza si inventa la storia della famiglia dell'arabo ucciso solo letterariamente nel romanzo, la costruisce e costruisce l'alternativa a chi era occupato dai francesi, legittima un omicidio del francese, inverte completamente la prospettiva e alla fine l'autore è un Albert Camus che è algerino e rivendica il diritto, per esempio, ad essere ateo. Allora è un romanzo eccezionale, perché capovolge, io vi invito a leggerlo perché veramente è una sorpresa, come è stato per chi lo ha letto Lo straniero di Camus. Questo capovolgimento di prospettiva è probabilmente l'indicazione di lavoro più grossa che abbiamo di fronte, così come il metodo di questo lavoro, che era il rigore di Giampaolo, il rimprovero di Giampaolo, e come potete capire io sento che mi manca, perché Giampaolo non è facilmente sostituibile con qualcun altro, con un altro collaboratore, ecco, detto proprio francamente. Insomma, avevo preparato una lunga cosa, però mi piace questa comunicazione diretta. Vi chiedo scusa subito se poi a un certo punto mi dovrò alzare per andare, però purtroppo il manifesto esce tutti, purtroppo, per favore, per fortuna, esce tutti i giorni, non è più un mensile. No, io dicevo purtroppo, perché insomma e le poche persone che lo fanno, una fatica, rimane una fatica. Grazie. Grazie Francesco. E ora Lia, volevo spostare troppo bicchieri. Esatto. In realtà io vorrei ringraziare prima di tutto la Fondazione Basso per questa occasione, Cristina Luciani, Pierluigi Triulzi, Carlo Guelfi, che insomma hanno anche aiutato a immaginare questo momento. Più che parlare del contributo di Giampaolo in ISPI, che credo non si discosti molto poi da quello di cui può parlare in modo più diffuso e più articolato Pierluigi, io vorrei invece ricordare la figura di Giampaolo come professore, nel senso che per me Giampaolo è stato il mio professore, credo anche dai ricordi che abbiamo condiviso soprattutto subito dopo la sua morte e nelle tante occasioni e tante belle occasioni di ricordo, che questo suo essere professore è una cosa che è rimasta da un lato nel cuore a molti e che fosse anche una delle caratteristiche a cui lui più teneva. Giampaolo è stato uno straordinario professore, uno straordinario divulgatore. E quindi io vorrei riportare qui in questo nostro incontro due insegnamenti per cui l'ho potuto ringraziare e uno spunto di riflessione che invece è emerso dopo la sua morte. Gli ultimi giorni di Giampaolo sono stati appunto dei giorni in cui in tanti abbiamo avuto l'opportunità di passare del tempo con lui e abbiamo avuto anche l'opportunità di raccogliere quelle ore piene di tristezza e di gratitudine per fare un po' un bilancio. Per me Giampaolo ha lasciato, tra le tante cose che ha lasciato dentro di me e che hanno veramente definito la persona che io sono, due cose. La prima, lo diceva anche Tommaso Di Francesco in modo analogo, è il tema della precisione, del rigore. Giampaolo lo diceva sempre, Lia, la differenza tra un ricercatore e un bravo ricercatore è la precisione. E questo ha significato per tutti coloro che sono passati, diciamo, dalle sue correzioni e dagli scambi con lui, ha significato da un lato un lavoro, lo ricordavamo anche con Cristina, un lavoro che anche è legato al lavoro che lui faceva e aveva fatto sull'astrolabio, su politica internazionale, quindi anche solo un lavoro di correzione di bozze come io non ho mai avuto su nessun tipo di lavoro che poi ho dato ad altri professori. Cioè, le correzioni di Giampaolo erano correzioni vere, correzioni di una persona che leggeva tutto, ogni riga di quello che scrivevi, che ci pensava e dava un contributo. E questo non è una caratteristica, insomma, che hanno tutti i professori, ce l'hanno solo i professori davvero bravi. E poi la precisione significava, insomma, dire che di controllare e di diventare una fonte. E questo credo che sia un elemento importante appunto nella formazione di un ricercatore, ed è una lezione ancora più importante in un'epoca come quella di oggi, in cui da un lato c'è internet e quindi si pensa che comunque, diciamo, l'informazione ce l'abbiamo sotto mano, e invece non è vero. Il ricercatore è qualcuno che può essere un punto di riferimento, e poi diventa particolarmente importante in un'epoca di post-verità, in cui ormai contano di più le opinioni e non i fatti, e invece i ricercatori hanno un altro compito, appunto quello di andare a cercare il nocciolo di quello che è o di quello che è stato. E Giampaolo, che era uno storico, ma era anche laureato in legge, e questi due elementi secondo me lo hanno, insomma, contraddistinto, anche leggendo i suoi lavori si vede questo rigore bifronte, ha lasciato questo elemento della precisione in tanti dei suoi alunni. Il secondo insegnamento invece è più specifico allo studio delle questioni africane. Io credo che l'impronta, poi Pierluigi ne parlerà più diffusamente, l'impronta però più significativa del lavoro scientifico di Giampaolo sia stato quello di bilanciare il resoconto delle cause esogene ai fenomeni africani con una profonda comprensione delle dinamiche endogene alle società africane. Quindi di questo io probabilmente ho conosciuto un Giampaolo più tardo rispetto a quando ci lavorava Gianfranco Astori, ma credo che questo bilanciamento, soprattutto in un'ottica come la sua, che era comunque un'ottica di studio da sinistra, abbia lasciato invece una prospettiva diversa, diciamo un certo tipo di storiografia, un certo tipo di spiegazione dell'Africa da una prospettiva di sinistra è sempre quella che l'Africa è oggetto di appetiti, è oggetto di interessi, e che tutto in Africa si deve leggere come conseguenza di altre forze più grandi, più potenti, più determinate, che determinano quello che succede nei contesti africani. Invece il lavoro scientifico di Giampaolo è sempre stato un lavoro scientifico che ha cercato di indagare e di stimolare all'indagine, e ha riportato anche, diciamo, in primo piano le dinamiche interne, cercando di fare dell'Africa non solo un oggetto della politica internazionale, ma anche un soggetto della politica internazionale, soprattutto questo fatto anche in anni in cui, diciamo, c'era, quando l'ho conosciuto io, c'era di moda l'afropessimismo, e quindi una rappresentazione dell'Africa molto diversa, anche seppure oggi noi ci confrontiamo con un'Africa che è, diciamo, quantomeno grigia, un po' bianca, un po' nera, un po' che va bene, un po' che invece torna indietro su alcune delle conquiste fatte in alcuni anni più recenti. Comunque un'Africa molto più protagonista. La fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000 non era così, e non è stato così per tanto tempo, e credo che questo sia un elemento importante del suo lascito intellettuale. Combinando queste due caratteristiche, noi abbiamo appunto quello che per me è stato Giampaolo, cioè uno studioso prima e sempre di tutto molto rigoroso con il suo oggetto ricerca, con le sue idee, con i suoi studenti e con il suo campo di ricerca. Questo faceva di Giampaolo una persona con opinioni molto definite, molto bene argomentate, e però una persona mai faziosa, sempre intellettualmente molto onesta, con cui era anche difficile discutere, perché effettivamente portava a sostegno della sua opinione una serie di fatti e di ragionamenti ai quali era difficile rispondere in modo altrettanto argomentato e altrettanto stringente. L'ultimo insegnamento, diciamo l'ultimo spunto, e io mi auguro che questo non sia l'ultimo, ma è l'ultimo in senso di il più recente, di Giampaolo rispetto alla mia formazione, mi è venuto cercando un brano da leggere per un'altra commemorazione in ISPI, e sono andata a rileggermi con un occhio diverso dalla parte dei Leoni. Io ho letto le sue opere come studentessa, oggi ho un ruolo diverso, ed effettivamente rileggere le sue opere dal punto di vista, diciamo, politico, si hanno una serie di spunti che sono molto attuali. Dalla parte dei Leoni è un libro, forse meno quello a cui io attingo con il più versatile, per me il più bello, della sua produzione del 1995. Giampaolo nelle ultime pagine ragiona sul fenomeno degli extracomunitari e sostanzialmente Giampaolo dice: lo scandalo è la gestione di un problema, appunto quello degli extracomunitari e dell'immigrazione, che riguarda così intimamente e direttamente l'Africa, ignorando l'Africa e avendo fatto e continuando poco a fare poco o nulla per familiarizzarsi con la sua storia, le sue civiltà, le sue lingue. Questo atteggiamento di estraneità può essere considerato il vero volto del razzismo oggi, più grave in sé dei singoli episodi di intolleranza o di teppismo che sempre più spesso costellano la vita delle nostre città, anche perché, appunto, questo atteggiamento tocca la società nei suoi livelli colti e istituzionalizzati, e perché né la cultura né la politica danno l'impressione di voler responsabilmente pensare ai rimedi opportuni affinché i ritardi e i vuoti vengano finalmente colmati. Diciamo, questo è una cosa che lui scriveva nel 1995. A 22 anni di distanza, con il fatto che appunto l'Africa è ritornata in modo molto visibile sulle nostre coste, nelle strade delle nostre città, credo che sia uno spunto che debba animare una riflessione congiunta della politica e della cultura su come, al netto delle misure che noi stiamo come governo, come, diciamo, parte politica italiana, mettendo in campo per strutturare un rapporto diverso con l'Africa, di come si riesca a colmare questo ritardo. E credo che sia uno spunto che, se vogliamo, diciamo, provare a spingere più in là lo sguardo e il ricordo di Giampaolo, possa essere quello per il momento più attuale, ma di un'attualità che resterà per qualche anno con noi. Ringrazio Lia per questo ricordo e soprattutto per questa enfasi sul vuoto che si è creato in Italia su questa questione e che bisognerà in qualche modo cercare di ricolmare. E ricordo che noi abbiamo pensato con Gianni Toglioni a questo giorno anche per significare in qualche modo una presa di coscienza all'interno della Fondazione della necessità di tornare un po' a riflettere sull'Africa, le radici di questa smemoratezza nazionale, il suo importante ruolo nella politica internazionale, anche nella cultura internazionale. L'Africa ha fatto dei passi avanti straordinari nella cultura internazionale e quindi la Fondazione già comincia a pensare a una serie di iniziative, attività che poi verranno comunicate, ma che vuole proprio ritornare a pensare all'Africa un po' come laboratorio, come si pensava negli anni 60, quando Giampaolo scriveva nel 67 le rivoluzioni dell'Africa, alla vigilia del 68, l'Africa era un po' un laboratorio di modernità per certi versi e di esplorazione del politico. E oggi sta tornando questa necessità di riflettere sull'Africa di oggi e voglio aggiungere soltanto un ultimo punto: questa straordinaria incapacità di Giampaolo di ascoltare date sbagliate. Io mi ricordo che lui si sedeva nelle conferenze e lui sembrava così assorto, quasi non vedere, con gli occhi chiusi spesso, però poi borbottava sempre qualche cosa, 1978 se era, no? Oppure no, questo non è vero. Cioè lui aveva questa sua spigolosità, però sempre più necessaria oggi. E l'altra cosa era straordinario, scusate quest'altra confessione, nei verbali dei concorsi universitari Giampaolo era incapace di, che sono una cosa atroce, diciamo medievale come, come terminologia, ammontare copie sopra copie, e lui non, non voleva mollare il verbale prima di aver corretto tutti i refusi che c'erano. E poiché i refusi erano infiniti anche nei, nei prestampati dell'università, non si finivano mai i concorsi, perché Giampaolo fino alle 8, alle 9 di sera, no guarda questo, qui, qui bisogna correggere, eccetera. Quindi, però questo rende l'idea anche dell'uomo e del grande educatore. Effettivamente è una persona che ha molto inciso sulla, sui giovani e sui suoi allievi, e quindi è il momento giusto di dare la parola a Pierluigi. Sì, grazie. Nessuno ha mai pensato di voi di rileggere i verbali dopo che erano stati corretti da Giampaolo accuratamente e di confrontarli con le decisioni prese. Comunque, si sono sentiti diversi Giampaoli, ma vedo che tutto sommato poi vengono riportati a una certa omogeneità. Diversi Giampaoli come diversi di ciascuno di noi ci sono ovviamente. Io l'ho conosciuto Giampaolo come docente, anch'io, 42 anni fa, un'esperienza simile a quella di Lia, nel novembre del 1975, io avevo 19 anni e iniziavo l'università come studente di lettere a Pisa. Giampaolo era, era già direttore dell'IPALMO e di politica internazionale, non era un vero professore. Ritornava proprio quell'anno all'università come incaricato di storia e istituzioni dei paesi afroasiatici nel nuovissimo corso di laurea in storia, che era il primo del, del genere in Italia, che veniva inaugurato a Pisa. Non era appunto ancora professore, lo sarebbe diventato però pochi anni dopo. Quell'incontro poi ha avuto per me delle conseguenze di portata complessiva, ben oltre gli esami con lui, la tesi di laurea in storia dell'Africa e altre esperienze. Insomma, attraverso Giampaolo sono arrivato all'IPALMO dopo la laurea, sono venuto a vivere a Roma, ho conosciuto molti che ora sono qui presenti, vedo tante facce del passato e del presente, insomma. E ho stabilito rapporti di amicizia duratura. L'ho riavuto poi come supervisore dei miei studi di dottorato e quindi attraverso di lui sono rientrato all'università e in qualche modo ho seguito il suo percorso come retrovia, magari un po' autonoma e insubordinata, devo dire, ma alla fine facendomi convincere da lui a prendere il suo posto a Pavia al momento del suo pensionamento. Insomma, Calchi ha segnato la storia della mia vita in una maniera talmente costante e intensa che è molto difficile per me districare i ricordi, le fasi, i momenti, anche i toni di un rapporto così lungo. Sapete che Giampaolo aveva un caratteraccio, no? Che però, oltre l'ovvio aspetto della relazione, anche gerarchica, se vogliamo, maestro-allievo, è stato in primo luogo sicuramente un rapporto di amicizia profonda. Quando l'ho conosciuto, Giampaolo era già una voce nota, prestigiosa direi, delle, degli studi italiani, silenzio Elisabetta, di politica e storia dell'Africa contemporanea. Come ha detto Lia, si era formato in giurisprudenza a Milano e quindi era stato assistente a scienze politiche a Pavia, era particolarmente legato a, a studiosi, a grossi studiosi insomma di grande levatura come Paolo Beogno Brocchiere, specialmente Giorgio Borsa. Poi come docente ha prestato servizio in tre sedi universitarie: Pisa fra il 75 e l'87, Urbino dall'87 mi pare al 96, dove è stato fondatore e primo preside della Facoltà di Scienze Politiche, e poi Pavia dal 96 al 2007, dove è stato direttore del Dipartimento di Studi Politici e Sociali. Quali sono stati i suoi temi di interesse come studioso, come accademico? Le relazioni fra i poteri, le relazioni fra gli stati, il rapporto fra società e politica, sono questi i temi che poi l'hanno avvinto come studioso e che ne hanno fatto in particolare uno storico di colonialismo e decolonizzazione e potremmo dire del rapporto Nord-Sud. Molti ricorderanno fra di noi i suoi volumi sulla storia dell'Algeria indipendente, quello sulla guerra d'Algeria del 69, quello della storia dell'Algeria indipendente più tardo, mi pare degli anni 90, fine degli anni 90. È stato citato quello che lui nel quel suo lavoro su quel, col titolo di un suo notissimo volume del 67, lui definiva le rivoluzioni dell'Africa nera da poco indipendente, o ancora i suoi lavori sul Medio Oriente, il canale della discordia, Suez, la politica estera italiana, che della fine anni 90 è anche quello, e poi fino alla sua ultima curatela, che del 2012 verso un nuovo orientalismo, primavere arabe e grande Medio Oriente, mi pare. Quindi il Medio Oriente è entrato in maniera molto forte poi in certe fasi nel suo lavoro di storico. Ma come storico dell'Africa, Giampaolo è stato in primo luogo uno studioso dell'Etiopia, del Corno d'Africa, di quelle che furono le colonie italiane, Eritrea, Somalia e Libia. Di quell'Africa, della sua storia otto-novecentesca, Giampaolo è divenuto un'autorità riconosciuta a livello internazionale. Cito solo due libri in questo caso, che sono stati due libri di peso, insomma, di rilievo: Il Corno d'Africa nella storia e nella politica, del 94, e il suo ultimo libro collettaneo. Sì, sono tutte e due del 12, quindi ne ha due ultimi collettanei del 12, che è L'Africa d'Italia, una storia coloniale e postcoloniale. Dal punto di vista dell'Accademia, il Calchi Novati analista di politica ha spesso creato ostacoli al Calchi Novati storico. In anni ormai lontanissimi c'era questa proiezione militante di Giampaolo sull'interpretazione del presente, che gli costò la cooptazione nell'università, perché partecipò infatti all'ultimo concorso di libera docenza in storia, e questa gli fu negata da storici dell'Africa noti, i quali ritenevano che la sua compromissione con l'oggi lo allontanasse dalla storiografia e lo impantanasse troppo nell'ideologia, se non nella politica combattuta. Tanti dicevano: più che uno storico, Calchi Novati è un giornalista, e aggiungevano: a servizio di una parte chiara. E peraltro diversi seguitano a dirlo, e sicuramente Giampaolo, come mi ha corretto poche settimane fa Marisa Mura, una cara amica, anche lei di Palmo, è stato non tanto un giornalista quanto un pubblicista di capacità e spessore spesso molto notevoli. È stato, come abbiamo visto, una figura di analista militante nella politica, in grado di anche di esercitare a tratti un'influenza molto discreta, ma insomma effettiva, in alcuni momenti squisitamente politici concernenti i rapporti tra l'Italia e l'Africa. Si è parlato che è un punto importante, del Calchi Novati direttore di Palmo. A storia ha detto delle cose molto interessanti, insomma, un contributo effettivamente forte alla lettura del personaggio nella sua complessità intellettuale. Giampaolo era una personalità esuberante, sempre accompagnata da una ironia inestinguibile che spesso sconfinava poi nel sarcasmo, come sapevano coloro che lavoravano con lui e che spesso lo subivano, ma specialmente amava fuor di misura il lavoro. Workaholic, era dominato da una fortissima spinta ideale e concepiva il lavoro costante come espressione del proprio ruolo di servizio in quanto intellettuale, adempiendo a una responsabilità personale nei confronti della società più in generale. Non so quanto amasse la libertà come categoria astratta, come si dice sempre di chi muore, no? Dell'intellettuale che muore, ma so che la sua lettura della libertà presupponeva la pace, che era interpretata come connubio inscindibile di dovere, giustizia e responsabilità personale. Riteneva dunque un dovere morale primario l'impegno per la liberazione dalle forme di ingiustizia e oppressione degli individui come dei popoli. In questo, insieme ad altre radici ideali, ovviamente salta fuori con evidenza anche la sua profonda radice cristiana. L'Africa ha costituito uno strumento e un luogo fondamentali nella manifestazione e realizzazione di questo impegno. Come sappiamo, la maturità intellettuale di Giampaolo coincide con il processo di decolonizzazione del continente e con il varo, è stato detto, di progetti generosi, ambiziosi, ma spesso anche velleitari, di emancipazione, riscatto, sviluppo di società che uscivano da un dominio europeo connotato da aspetti evidenti di ingiustizia, di oppressione, specialmente di razzismo. A tratti Calchi Novati si è anche molto compiaciuto di un certo ruolo, una certa dimensione di cantore di questo processo di liberazione politica e delle sue idealità di progresso, in cui ha forse creduto cum grano salis, ma nelle quali ha ravvisato, secondo me a molta ragione, il passaggio epocale probabilmente più denso di implicazioni della storia mondiale nella seconda metà del Novecento. Come ha detto Lia, Calchi è stato, direi, motivatamente partigiano, non fazioso. Non ha mai abdicato specialmente allo specifico del suo ruolo di storico e di studioso della politica, e ha sempre bilanciato l'adesione ideale personale con il mantenimento puntiglioso nell'analisi di una, quella distanza critica che è il requisito imprescindibile per il ricercatore. Un momento fondamentale nella storia di Calchi come africanista è stata la sua esperienza di insegnamento, è stata menzionata anche questa storia, come di insegnamento all'Institute of Ethiopian Studies dell'Università di Addis Abeba nel contesto della cooperazione universitaria nel corso degli anni 90. Come spesso succede, la residenza prolungata ha tirato fuori un altro, un diverso Calchi Novati africanista. Ha cambiato la sua percezione dell'Africa rispetto alle sue precedenti frequentazioni, che erano più mirate, più occasionali, nel suo passato come studioso di relazioni internazionali. In Etiopia Giampaolo ha stabilito relazioni intellettuali umane profonde, durature, amicizie con persone molto diverse fra loro. E spesso schierate anche su fronti politico-ideologici anche molto distanti dai suoi. Insomma, Giampaolo ha visto e vissuto l'Africa come parte della sua realtà, della sua quotidianità, non solo come oggetto di studio, come raffronto teorico, come palestra sperimentale, come occasione per parlare di qualcos'altro, come dice Mbembe, lo sviluppo, i conflitti, le crisi dello Stato, le migrazioni, la sicurezza, insomma dell'Occidente, di noi, di qui e non di là. Questo è un po' un limite anche grave di tanta africanistica. Vivendo in Etiopia, Giampaolo se n'è convinto fino in fondo. C'è a testimoniare di questa sua correzione, di questo suo cambiamento, proprio quel libretto che ha citato Lia, che è un libretto minore fra quelli di Giampaolo, ma in realtà anche secondo me è un libro molto importante. Lui lo pubblica nel 95 ed è intitolato Dalla parte dei leoni, Africa nuova, Africa vecchia, non mi ricordo bene. Qui Giampaolo diventa ben conscio del pericolo insito nel ridurre l'Africa a categoria dell'analisi e dello studio, oppure a una proiezione di emozioni, di convinzioni, valori e scelte di impegno ideale politico, con il risultato paradossale, usando la sua espressione, cito, di considerare astratti gli africani veri e vera un'idea astratta dell'Africa. Li cambia Giampaolo. È un pericolo che può essere evitato, dice lui, solo collegando, cito, i problemi dell'Africa, senza stravolgimenti, agli avvenimenti intersecati o paralleli che si svolgono in altre parti del mondo. Per questo, sostiene, bisognerebbe finirla con la specificità africana, bisognerebbe disfarsi dell'esotismo, l'africanistica dovrebbe imparare a essere un po' meno africanistica. In questa prospettiva, ad esempio, drammi e tragedie dell'Africa, scrive, cessano di essere fenomeni assurdi e diventano le facce di una problematica che è africana in quanto è di portata generale. E d'altra parte, conclude, una storia regionale dell'Africa e diventa universale solo se il perno è l'Africa e non l'Europa, l'Occidente, il colonialismo, lo sviluppo e qualsiasi altra cosa. Allora, queste parole secondo me riassumono bene il percorso di Calchi Novati come africanista, ovvero africanista, ovvero come storico dell'Africa e insieme come analista della sua politica contemporanea. È qui che si ricompongono i Calchi Novati in fondo diversi e peculiari dell'Università, dell'ISPI, del Manifesto e dell'IPALMO. Ma l'IPALMO, a mio parere, gioca un ruolo assolutamente cruciale in questa ricomposizione. Senza Calchi l'IPALMO sarebbe stato sicuramente molto diverso da come lo abbiamo conosciuto noi, ma senza IPALMO e senza la rivista Politica Internazionale Calchi sarebbe stata una figura ben differente di studioso. Sarebbe stato un po' come noi professorini, qualcosa di diverso. Lui lo sapeva bene e ne abbiamo spesso parlato anche molto di recente, lo scorso dicembre, quando mi ribadiva, appunto scritto il famoso articolo per il Manifesto del 17, mi ribadiva la sua delusione non tanto per la conclusione di un antico progetto che in fondo era legato ad altre stagioni della politica e della cultura del nostro paese, anche se per tanti aspetti sono state belle stagioni, quanto la sua delusione per la dispersione di un'eredità anche materiale, che era l'evidenza più tangibile di una storia importante. Qual è stata quella del Palmo? La biblioteca, la rivista in primo luogo. E in questo senso la sua amarezza per il trapasso dell'IPALMO si accompagnava a quella per la chiusura dell'ISIAO, un'altra istituzione essenziale per gli studi in Italia dei temi a cui aveva dedicato la vita e che, proprio come l'IPALMO, ergue più. Grazie. Beh, anche questo richiamo al collegamento tra i Palmo e Isiao e dispersione di un'eredità di libri, di conoscenze, di saperi e anche di capacità critica nei confronti di quello che in Italia si comunemente veniva percepito come il problema africano, riporta veramente in luce la necessità di capire che noi siamo qui non soltanto così per ricordare un amico, ma anche per rivalutare un momento importante in cui questo amico ci ha fatto capire meglio il continente che noi abbiamo studiato e anche tutte l'eredità che in qualche modo la sua presenza tra noi ci ha lasciato. E io qui so che ci sono varie persone che hanno conosciuto Giampaolo, che hanno lavorato all'IPALMO, all'ISIAO, all'università, forse anche all'ISPI. E se c'è voglia di aggiungere qualche cosa a quello che è stato detto, questo è il momento di farlo, insomma. Compreso naturalmente la fondazione eccetera. E io vorrei soltanto aggiungere due parole sull'esperienza di Giampaolo che io ho conosciuto da vicino quando lui insegnava a Addis Abeba. Noi eravamo insieme colleghi all'università di Addis Abeba e devo dire per onestà di ricordi in un apprezzamento non sempre positivo della politica che il governo italiano ha fatto nei confronti del Corno d'Africa, che quella cooperazione interuniversitaria che si stabilì agli inizi degli anni 90 è stato proprio una ventata di novità. Era appena caduto il DERG e si pensava come sostenere l'università di Addis Abeba. E lì alcune intelligenze dentro il Ministero degli Esteri capirono che il momento era quello giusto per cercare di qualificare quei dipartimenti, soprattutto umanistici, all'Università di Addis Abeba da un lato e quelli più scientifici di punta che durante il periodo del socialismo etiopico erano stati invece messi da parte. Tenete conto che per esempio la lingua ghese non era più insegnata da nessuna parte, cosa di cui si rammaricava lo stesso Giampaolo, che la filologia naturalmente era esclusa, che si faceva soltanto cattiva tra virgolette storia contemporanea e né storia moderna né la storia del periodo medievale che è così importante per l'Etiopia aveva spazio durante il periodo del DERG. Ebbene, negli anni 90, attraverso una serie di persone che hanno collaborato a questa iniziativa, sono stati creati nuovi dipartimenti all'Università di Addis Abeba, il Dipartimento di Antropologia, c'era ancora il professor Bernardo Bernardi che ha collaborato dal di dentro e ha messo in piedi le basi del nuovo Dipartimento di Antropologia. Non esisteva antropologia in Etiopia, è paradossale, fino al 1991, ma il Dipartimento nuovo di Archeologia, cioè se nel 2005 l'obelisco di Aksum, sia pure con grande ritardo, torna in Etiopia e trova degli archeologi etiopi pronti e preparati per ospitarlo e dare un senso all'interno della cultura etiopica di questo obelisco, è perché dal 91 fino alla guerra, purtroppo del 98-2000, che ha interrotto un po' questi rapporti, c'è stato un effettivo modello di cooperazione che voleva dare effettivamente gli strumenti. Era molto diverso dal modello Mogadiscio. Il modello Mogadiscio era un impianto, come dire, di trasposizione di un'università italiana laggiù, ed è stato un fallimento clamoroso. E il fallimento non c'è stato tanto quando sono tornati, quando l'università era in corso, quando quell'università è stata chiusa e in Italia sono arrivati 600 professori somali che avevano insegnato all'Università di Addis Abeba, il governo italiano non ha trovato il modo di trattenerne nemmeno uno nelle università italiane. E sono tutti emigrati verso gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia o i paesi del nord. E quindi uno spreco di risorse, di intelligenze e di saperi veramente incredibili. Ecco, il modello di Sabeba invece puntava su i docenti e ricercatori etiopici e portava, gli dava la possibilità di studiare. Mi ricordo, portava i computer, i primi computer che arrivano dopo il periodo del socialismo in Etiopia sono i computer italiani, e sono i computer che vanno archeologia, il nuovo dipartimento di scienze politiche, perché non c'era dipartimento di scienze politiche durante il Derg, dipartimento di storia, di antropologia, e unito a quello di economia e anche geologia. Mi ricordo c'era un fortissimo dipartimento di geologia per tutto l'esame delle risorse, eccetera. Ecco, Calchi è stato il coordinatore, l'animatore di questo progetto, l'ha seguito per una decina di anni e per la prima volta in vita sua ha soggiornato per lunghi periodi in Africa. Si svegliava e si andava a letto in Africa, leggeva, faceva amicizie, parlava e per la prima volta, come dire, ha conosciuto dall'interno, e quello che erano soltanto teorie e, come dire, intelligenze di letture sul continente africano, è diventato invece constatazione che sì, che la situazione era molto più complessa di quanto qualunque teoria potesse prevedere, e che soltanto un contatto diretto tra fattori endogeni e fattori esogeni, e da un lato una conoscenza viva e reale dei problemi e una forte solidità di approccio teorico, poteva dar conto della straordinaria complessità della situazione etiopica. Quindi credo che quegli anni in cui lavoravamo a stretto contatto di gomito all'Università di Addis Abeba sono stati anni molto importanti per me personalmente, per Calchi Novati, credo per l'Università di Addis Abeba e per i suoi meriti anche del governo italiano di allora. Purtroppo, dopo quella parentesi degli anni 90, non più molto si sta facendo in questa direzione. Scusate, Carlo, vuoi dire qualche cosa? Mi sembra che sia stato detto,